Un primo servizio che i cittadini forse vedono di meno, no? A volte si chiedono anche a che cosa serve, ma che è già operativo, è quello legato al progetto di tessera sanitaria. È stata distribuita a tutti gli italiani una tessera sanitaria che va presentata alla farmacia o va presentata al laboratorio nel momento in cui si svolge un esame. Questo serve per poter collegare, per poter creare un sistema di monitoraggio delle prescrizioni e quindi fare in modo che, come dire, chi governa il sistema, le regioni, le aziende sanitarie, anche il governo per certi versi, possa avere informazioni utili a migliorare l'utilizzo delle risorse, quindi evitare il fenomeno dell'iperprescrizione, ritornare sul medico di medicina generale migliorando sempre più appunto l'approccio alla prescrizione e quindi fare in modo che le risorse disponibili siano tutte impiegate e diventino utili per il paziente. E questo è un esempio di sanità digitale di governo che però, come dire, è già attivo in alcune regioni e man mano si sta estendendo a tutto il territorio nazionale. Un altro invece sistema più legato all'assistenza, lo stanno sperimentando molti cittadini emiliani, molti cittadini lombardi, ed è quello dato dai progetti Sole in Emilia e il progetto CRS SIS in Lombardia. In questi casi i medici di base sono collegati in una rete e possono prescrivere elettronicamente, il cittadino con la sua prescrizione elettronica può recarsi in farmacia e quindi ritirare il farmaco in modo più sicuro e soprattutto c'è un collegamento fra strutture che erogano prestazioni, quindi gli ospedali e il medico di medicina generale che può quindi ottenere il risultato delle indagini che chiede e avere l'insieme delle informazioni utili a migliorare l'approccio diagnostico e terapeutico. Anche il paziente può accedere alla propria cartella clinica, al proprio fascicolo sanitario personale e quindi ecco, questo è un servizio che è nato in queste regioni, però rappresenta un po' la visione futura di quello che può dare la sanità digitale.